Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Domenica 17 gennaio, Benedetto XVI visiterà la sinagoga di Roma. Sarà la seconda volta dopo la famosa visita di Giovanni Paolo II. Certamente sia il mondo cristiano che quello ebraico saranno in attesa di sentire che cosa il Papa dirà a coloro che il suo predecessore definì fratelli maggiori e che cosa loro risponderanno. Certo, si rimane stupiti di fronte alla misteriosa storia di questo popolo che Dio scelse per fare un cammino con lui e per rivelargli il suo amore attraverso i patriarchi e i profeti, dando ad esso una legge e dei comandamenti per renderlo un popolo ben disposto e civile. Ma sappiamo che anche questo popolo, pur con questa predilezione e particolare protezione, spesso si dimostrò infedele. E Mosè ebbe a dire che è un popolo dalla dura cervice. Per questo molti profeti vennero osteggiati e anche uccisi. Questa legge e questi avvertimenti furono accolti da colui che per me è il più grande tra i figli di Israele, e cioè Gesù Cristo, che fece dell'amore il vertice e il completamento della legge e dei profeti. Ma anche i popoli che accolsero il messaggio di Cristo spesso si comportarono come il popolo eletto e, disobbedendo alla legge dell'amore, come l'antico popolo ebreo, attirarono su di sé il flagello delle guerre e il fallimento dei progetti umani. Sappiamo che il popolo ebreo non ha ancora accettato Cristo come il Messia tanto atteso. Infatti è per loro una bestemmia pensare che Dio possa essersi fatto uno di noi. Ma è altrettanto vero che è considerato uno scandalo anche da parte dei musulmani e persino da tanti uomini e donne che hanno ricevuto un'eredità cristiana. Nel secolo scorso, una grande personalità del popolo ebreo, Karl Marx, progettò assieme a Lenin un messianismo terreno, con un uomo nuovo e una società che avrebbe dovuto essere pian piano liberata dalle tante schiavitù che affliggono l'umanità. E questo esperimento doveva essere portato avanti contro Dio e la religione, considerati come oppio dei popoli. La scia di errori ed orrori, diffusa come una peste in tutto il mondo, portò invece alla schiavitù e alla morte di numerose nazioni. Anche il nazismo, altra ideologia atea, nonostante il Gott mit uns, che doveva portare al Reich millenario, cadde rovinosamente portando con sé una scia di sangue e morte, che oltre allo scatenamento di una terribile guerra, fece perire nei lager milioni di ebrei e oppositori al regime. Ma il popolo ebreo ha avuto grandi personalità anche nel campo scientifico, nella medicina e nella psicologia, così come nella letteratura e nelle arti, eccetera, che hanno influenzato con il loro sapere il secolo scorso. Possiamo inoltre dire che sia il popolo ebreo come il popolo cristiano, oltre ad avere comuni radici nell'Antico Testamento, insieme alle molte infedeltà, hanno fatto esperienza di che cosa sia la persecuzione e l'ostilità. Giovanni Paolo II ebbe a dire, con grande senso profetico, che siamo ora in un'epoca di grandi sfide. Possiamo fare del mondo un giardino o un cumulo di macerie. Ma anche se fossimo in grado di creare un mondo più giusto, rimane sempre l'enigma della morte, delle malattie, delle sempre possibili ingiustizie, delle terribili catastrofi naturali, come quella che sta vivendo il popolo di Haiti. E allora, di fronte al fallimento dei progetti umani, perché non guardare più da vicino all'ebreo Gesù di Nazareth, a colui che si è detto risurrezione e vita? Potremmo scoprire che solo un Dio poteva essere capace di inventare una buona notizia di tal fatta. Se non vi è risurrezione dei nostri corpi e tutto finisce nel nulla, come pensano anche molti ebrei, che senso hanno i nostri sforzi di giustizie e di pace? Che senso hanno le migliaia di morti di Haiti, quelli di tutti i conflitti e persino la nostra morte? I media, però, saranno più interessati a che cosa dirà il Papa sul conflitto israelo-palestinese o sulla figura di Pio XII, temi importanti, per carità, ma che non tengono conto che senza Dio non vi è legge naturale, né giustizia, né pace, e finiamo schiavi di noi stessi e dei nostri egoismi. Sono comunque certo che, anche se non tutti lo capiranno, il Papa saprà sorprenderci anche questa volta. Claudio. Ogni volta che sento parlare della condizione degli stadi come giustificazione, anche solo parziale, dei gesti di violenza, degli insulti, dei comportamenti da bestie, espulsioni, esplosioni, fumogeni, incendi, eccetera, resto sempre molto perplesso e anche un po' arrabbiato. Ma come? È colpa dello stadio vecchio se qualcuno tira un fumogeno? Se sfascia i seggiolini? Se dà fuoco? Se tira le monete in campo? Mi sembra incredibile attribuire alla struttura delle colpe. Alla struttura, non semplicemente solo alle persone. Quindi chi vive in un condominio vecchio o brutto e si lasciasse andare a gesti simili avrebbe come parziale possibile giustificazione o motivo più o meno valido il fatto che sia vecchio e brutto. E ovviamente anche guidando una vettura vecchia sarei giustificato se volessi sfondare delle vetrine. Ci mancherebbe. L'auto è vecchia. Colpa degli stadi, brutti e cattivi anche, che incuranti delle persone civili e sportive che vi entrano fanno di tutto per far perdere la pazienza agli spettatori, che esasperati dopo tutti gli attacchi, i disturbi, gli sberleffi che lo stadio silenziosamente e velenosamente fa, cedono e si sfogano menandosi o spaccando qualcosa. Eh sì, sono astuti gli stadi e ti fanno cadere alla distanza. Diego. Caro direttore, erano 20 anni che non mi recavo più allo stadio, ma la simpatia che ho sempre avuto per il Novara mi ha indotto a recarmi in banca, acquistare i biglietti e fare una sorpresa a mio figlio di 13 anni. Ebbene, quello che si è visto mercoledì sera a San Siro è senza ombra di dubbio ciò che chiunque vorrebbe vedere affacciandosi nelle moderne arene. Famiglie con bambini, sciarpe, bandierine e colori delle squadre, spettatori composti, tifo a favore della propria squadra e non contro l'altra, rispetto e divertimento. Certo, un ottavo di Coppa Italia non è la Champions o il campionato dove gli interessi sono maggiori, ma il Milan non poteva di sicuro entrare in campo per perdere, mentre il Novara, rinverdendo antiche vestigia del proprio smarrito fasto e riassaporando il gusto per competizioni non più frequentate da 30 anni, desiderava prolungare un sogno che ha appassionato tutta una città. Se quindi non c'erano micce da innescare, gli ingredienti per un confronto vero non mancavano, come ha dimostrato l'andamento dell'incontro, bello e combattuto. Ma molto più bello è stato vedere il contorno, il comportamento dei tifosi, specie quello dei novaresi, i realmente padroni di San Siro, che hanno sempre incitato la squadra senza mai deviare verso quei cori stupidi e volgari che non mancano mai nelle domeniche di campionato. È stato bello vedere la felicità di tutti e gli applausi sinceri con cui il Milan, vittorioso, è stato congedato, nonché quelli più calorosi con cui idealmente è stato abbracciato il Novara, che non è riuscito nell'impossibile impresa. E belli sono stati i commenti all'uscita, dove tutti, indistintamente, erano felici dell'evento sportivo, così come s'era svolto, riconoscendo che aveva vinto il più forte, ma con la consapevolezza che chi avesse perso aveva fatto quanto poteva e doveva per onorare lo sport. Nella speranza, flebile ai limiti dell'inanità, che questo esempio possa essere seguito da tutte le tifoserie d'Italia. Saluto cordialmente. Roberto. La levitazione del debito pubblico al 120% ha comportato uno spostamento di ricchezza verso la rendita parassitaria a danno dei ceti meno abbienti. Io non so quantificare l'entità di questo spostamento, ma potrei azzardare la cifra di circa 80 miliardi di euro. Pertanto la maggioranza degli italiani si sono impoveriti a vantaggio dei più ricchi. Quando i governi della destra asseriscono che loro non mettono le mani in tasca ai cittadini, mentono spudoratamente. Io non sono un economista, ma solo un padre di famiglia che con il suo modesto stipendio ha allevato una famiglia di 4 figli e so cosa vuol dire se una famiglia incomincia a fare debiti. È una vera sventura. Io ho sempre detto ai miei figli la verità. Ho detto che si può essere felici anche privandosi di quello che non è possibile avere. Il signor Berlusconi in questi 20 anni ha raccontato le tante belle fiabe della sua vita e gli italiani gli hanno creduto. E non hanno capito che le fiabe si raccontano ai bambini per farli stare buoni. Che Dio ce la mandi buona. Franco, da Pisa. Da elettore di destra, al di sopra di ogni sospetto di connivenza con i poteri comunisti, affermo che sono contrario ai provvedimenti presi dal governo mercoledì scorso, in particolare circa la riduzione dei posti dei consiglieri e burocrati vari, e inoltre per la mancata riduzione delle tasse. Se poi si sommano le dichiarazioni di Alfano e quelle di Marchionne, beh, allora penso che per l'Italia non ci sia più speranza. Massimo. Rispettabile direttore, purtroppo non riesco ad essere ottimista e pensare positivo, come i nostri governanti ci invitano a fare dalle loro reti TV. Da mesi non si vede più alcun servizio sulla difficoltà da parte di tanta gente di arrivare alla quarta settimana del mese. Comunque, negli ultimi 20 giorni, ogni rete controllata non ha fatto altro che parlarci prima di vacanze, mare, neve, tropici, e poi di saldi, tutta gente felice e sorridente. Purtroppo gli amici che lavorano in banca non fanno altro che riferirmi di persone che vanno a chiedere prestiti, oppure chiedono di allungare i tempi dei mutui, se non di sospendere le rate o simili amenità. Argomenti e difficoltà che non sento per nulla trattati in TV, almeno non nelle cinque reti padronali. Credo che i nostri governanti stiano pensando un po' troppo ai grandi affari per imprenditori, all'Italia, ponte sullo stretto, ferrovie, scudo fiscale, banche, appalti vari, eccetera, ma abbastanza poco per il popolo, il quale, stando ai sondaggi, stranamente li adora, anche se finge di ignorare il cumulo di debiti che va crescendo, senza che sia fatto alcun intervento riduttivo. Io non ce la faccio. Quando questi signori appaiono in TV e parlano, mi sento spesso ferito nella mia scarsissima intelligenza e comunque mi chiedo, ma ci credono veramente in quel che dicono? Oppure sono dei registratori umani che ripetono quanto il capo ordina loro di riferire? Concludo chiedendomi, ma veramente questo governo con i suoi ministri e supporter vari è così apprezzato dal popolo? Per quale motivo? Forse perché sta promuovendo strumenti per incentivare il lavoro, i consumi, i servizi, i trasporti, i salari e le pensioni? Ma, come si evince, trascuro gli argomenti giudiziari di qualunque tipo. Probabilmente sono caduto in letargo per tanti mesi. O sto ancora avendo gli incubi. Per favore, non svegliatemi. Auguri a tutti gli italiani. Ne abbiamo tanto bisogno. Tutti. Vincenzo, Parma. Riforma del processo penale? Occorrono almeno 4 professori universitari di procedura penale di indiscusso valore e possibilmente lontani dalla politica, 4 avvocati penalisti di grande prestigio, 4 magistrati esperti nella procedura penale, 4 cancellieri di lunga esperienza. Dopo un anno di lavoro e di approfondimenti anche statistici, il Parlamento approverà, con minime variazioni, il testo concordato dai 16 riformatori. Stop! Che senso ha una riforma del processo fatta in fretta e furia, in pochi mesi, da una persona come Berlusconi, sommamente interessato a certe soluzioni e non esperto di procedura penale, da 2 suoi avvocati difensori, ovviamente interessati alle stesse soluzioni, e da un ministro della giustizia di cui non si conosce il valore giuridico scientifico? Che razza di riforma può venire fuori? Giuseppe. Il pubblico ministero di Pietro sbaglia a dire che nei paesi democratici c'è sempre la possibilità di ricorrere in appello. Nei democratici Stati Uniti, colui che viene a difendersi perché accusato, il cosiddetto defendant, se viene assolto in primo grado, al procuratore non è dato alcuno strumento per ricorrere in appello. Ma perché Di Pietro è così accecato dall'odio per Berlusconi da non riuscire nemmeno a pensare o ragionare? Riccardo. Gentile direttore, cercando in rete qualcosa relativo alla parola contratto, mi appare una cosa di cui gli italiani si sono sicuramente scordati, visto poi come si è svolta la storia. Il famoso contratto con gli italiani, proposto agli italiani stessi da Silvio Berlusconi il giorno 8 maggio 2001, nella sede del notaio Bruno Vespa, e dagli stessi italiani successivamente accettato con il voto alle elezioni politiche. Brevemente, quel contratto prevedeva 5 punti: abbattimento della pressione fiscale, piano sicurezza, innalzamento pensioni minime ad almeno 1 milione al mese, dimezzamento del tasso di disoccupazione e creazione di almeno 1 milione di posti di lavoro, apertura cantieri per almeno il 40% del piano decennale per le grandi opere. Il tutto suggellato dall'impegno a non ricandidarsi nel caso in cui almeno 4 dei 5 punti non fossero stati realizzati. Ora sono passati quasi 9 anni, durante i quali il signor Berlusconi ha governato con ampia maggioranza, pressoché ininterrottamente, ad eccezione dei 2 anni scarsi del governo Prodi. Il contratto, che doveva essere onorato perlomeno all'80% in 5 anni, risulta ad oggi, dopo quasi 9 anni, largamente inadempiente perlomeno all'80% dei punti previsti. E risulta inadempiente soprattutto nel 6° punto. Perché questo signore ancora ci governa? Mi aiuti lei a capire, signor direttore, cosa non funziona nella democrazia italiana. Sergio Prato. Caro Sergio, sul contratto con gli italiani firmato da Berlusconi nel 2001 si è già scritto molto. Addirittura dei libri molto analitici e documentati come quello di Luca Ricolfi, edito dal Mulino. Ebbene, ne risulta in questo libro che le promesse sono state solo in parte mantenute, tranne quella che riguardava l'adeguamento delle pensioni. Ma quello che conta non è il giudizio matematico, ma quello politico. Non sono mancati esponenti della maggioranza che hanno per esempio sottolineato che i 5 punti sarebbero stati invece in gran parte rispettati. In una democrazia il vero giudizio è quello che nasce dal popolo e dalle elezioni. E le prime elezioni dopo il contratto si sono risolte in una sostanziale parità, le successive in una incontestabile vittoria della coalizione guidata da Berlusconi. Che ci piaccia o no, e pur con tanti difetti, la nostra democrazia funziona. Berlusconi guida in maniera del tutto legittima il governo di questo paese. Mi piacerebbe che tornaste sulla questione Alitalia in una delle vostre trasmissioni. È di pochi giorni fa un'intervista all'amministratore delegato di Alitalia che vantava un risultato operativo positivo per 15 milioni di euro per il gruppo Alitalia nel terzo trimestre dell'anno. Ancora, vantava il fatto di aver recuperato quote di mercato e competitività. Ahimè, sono uno dei tanti che usa l'aereo per spostamenti personali e onestamente non conosco il motivo per cui nessuno abbia avuto da ridire sulla trattenuta di Euro 6 a tratta per ogni biglietto acquistato online, introdotta non da molto. Ad esempio, per un Linate Bari si pagano 12 euro di commissioni a persona e purtroppo non è possibile pagare cash per ovviare a tale ulteriore tassa. L'utilizzo di internet, anni fa, introdotta la biglietteria online, serviva a ovviare l'utilizzo di agenzie di viaggi e relative commissioni in merito. Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, a quando i vari operatori telefonici trattenevano un importo su ogni ricarica di traffico telefonico. Ovviamente Alitalia non è l'unico vettore ad essersi adeguato a questa procedura. Sia MyAir che Ryanair l'hanno preceduta. Spero qualcuno intervenga in merito. Nicolò. I politici italiani sono solo egocentrici e pensano alle proprie tasche, come sempre negli ultimi 20 anni. Sono solo un gruppo di persone che sono coperte dalle banche. Il banchiere Rothschild una volta disse: «Datemi il controllo sulla moneta di una nazione e me ne frego di chi fa le leggi». Questa frase la dice tutta. Le banche comandano e la politica fa i comodi delle banche. Per questo ha carta bianca. Ma Henry Ford disse anche: «È un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse, credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina». Max da Roma. Scrivo dalla Cina. A volte penso, vedendo il decisionismo cinese, che l'Italia abbia bisogno di un sistema un po' più rigido. Sono un sincero democratico, ma penso che l'Italia non abbia più altre soluzioni. Leonello. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.